2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 6 marzo 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale, quindi il nostro indirizzo di posta elettronica, è 2024@radio24.it. Vi ricordo che il nostro programma sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it e vi ricordo anche che il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile attraverso il servizio podcast, che è un servizio gratuito, molto utile, molto comodo, entro un'ora e mezza dalla fine della trasmissione, quindi potrete scaricarlo a partire al massimo dalle 18:30 del sabato e per questo ringraziamo come sempre i nostri tecnici. Da questa settimana, dal 1 marzo, la Microsoft ha ottemperato, termine brutto ma tecnicamente corretto, ha ottemperato all'imposizione fatta dall'antitrust europeo e ha reso disponibile per Windows 7, Windows XP e anche Vista la possibilità di scelta del browser, cioè il programma per navigare in internet. Al primo collegamento alla rete si aprirà una schermata sul computer che proporrà una serie di programmi oltre ad Internet Explorer. Per i sistemi operativi già installati sui computer questa novità verrà resa disponibile tramite aggiornamento, quindi tramite Windows Update. È sempre molto utile tenere aggiornato il proprio computer, prima di tutto il proprio sistema operativo, quindi se non lo avete già attivato è utile appunto attivare Windows Update. In quest'ultimo caso si ha la possibilità appunto di questa scelta tra i vari programmi di navigazione. Quali sono i motivi alla base di questa decisione, di questa imposizione? Beh, è molto semplice. Vista la quota di mercato che Microsoft ha nel segmento dei sistemi operativi, che lo sappiamo è superiore al 90% in tutto il mondo, e vista l'importanza sempre maggiore che hanno i programmi per navigare in internet, l'Unione Europea nel 2008 aveva aperto un'inchiesta per abuso di posizione dominante. In pratica la Commissione di Bruxelles diceva: non puoi diventare numero uno nei browser approfittando del fatto che Windows è installato su 9 PC su 10. Per molti utenti, per chi già da tempo usa ad esempio programmi alternativi come l'ottimo Firefox, cambia molto poco, perché ho sentito in questi giorni parlare di liberalizzazione dei browser. Beh, insomma, niente di più sbagliato. Cambia poco per chi già conosceva altri programmi e quindi anche prima si potevano installare programmi alternativi a Internet Explorer, ora questa possibilità viene esplicitata in modo più evidente. La cosa curiosa è che nella lista dei programmi non ci sono solo le alternative più note come ad esempio Firefox, Chrome, il programma di Google, Opera di una società norvegese, o Safari della Apple. Questi sono i più importanti. Ci sono anche alcuni sconosciuti come Flock, Kmeleon, Avant, Flash Peak, Maxton, Sleipnir e Green Browser. In tutto, se consideriamo anche Internet Explorer 8, che comunque è una delle scelte proposte, si tratta di 12 opzioni. A chi si chiede perché è così importante il navigatore, quindi il programma per navigare in internet, possiamo dire due cose. La prima è andare nel nostro archivio, scrivere nella parte di ricerca dell'archivio, selezionando il programma 2024, scrivere browser, e lì si trovano un po' di cose, alcune puntate in cui abbiamo approfondito. In breve possiamo anche dire che, vista la crescita dei servizi erogati via internet, via web, pensate che cosa significa poter controllare la finestra che ci permette appunto di navigare dal nostro computer tutti i giorni, andare in rete. Sempre da Bruxelles arriva la notizia che dal 1 marzo è scattato lo stop imposto dalla Commissione alle megabollette telefoniche gonfiate da collegamenti a internet in roaming con PC portatili, quelli che utilizzano una chiavetta per collegarsi alla rete di telefonia mobile, o addirittura i telefonini, gli smartphone. Il limite di spesa mensile che dovranno attivare gli operatori telefonici è di 50 euro, che sarà automatico dal 1 luglio e per questi primi tre mesi dovrà invece essere richiesto al gestore di telefonia, quindi tre mesi di interregno in cui la richiesta è fatta su base volontaria e poi il limite scatterà in modo automatico. Se c'è accordo tra l'operatore e l'utente potranno essere scelti limiti diversi, quindi si può anche scegliere un limite più elevato. Il record per la bolletta più alta in Europa va ad un tedesco che si è visto addebitare 46.000 euro dopo aver scaricato un programma TV mentre era in Francia. E cosa dire in questo caso? Insomma, uno dovrebbe anche osservare, stare attento a che cosa, a quello che fa con il proprio telefonino, con il proprio computer. Però, certo, al di là di questo e di altri casi limite di cui abbiamo parlato anche nelle cronache di GR24 negli ultimi anni, è evidente anche a chi non è del settore che sta crescendo la richiesta di traffico dati anche in mobilità, e la mobilità prevede che si possa o si debba per lavoro andare al di là dei confini nazionali, quindi ben venga questo intervento, visto che per gli operatori il roaming rimane un grande business e a volte esagerano un po'. La richiesta di banda mette sotto pressione le reti di telefonia mobile, questo l'abbiamo detto più volte, gli operatori in alcune zone, in alcune aree dei paesi sono in difficoltà perché appunto le reti sono molto cariche, questo è anche un momento difficile dal punto di vista economico, quindi gli operatori stanno aggiornando chi più velocemente, chi più lentamente le proprie reti. Alcuni azzardano un po' alcune velocità e quindi lanciano messaggi di marketing un po' esagerati. Comunque quasi tutti gli operatori stanno lavorando alle reti che appunto dicevamo sono sotto pressione, non solo quando scarichiamo dati in grande quantità, quindi magari un allegato ad un'email, una canzone, ma anche quando uno smartphone è semplicemente acceso magari con alcune applicazioni attive. Di questo abbiamo parlato con Alessandro Di Salvo di Nokia Siemens Network, una delle società che costruiscono reti di telefonia mobile, quindi una delle società che costruiscono le antenne e l'infrastruttura che c'è dietro. Facciamo un esempio classico. Qualora un utilizzatore di uno smartphone magari abbia lanciato un'applicazione come Fring, che è di fatto una piattaforma di chat e allo stesso tempo anche di la possibilità di dare chiamate voce, diciamo quella conosciuta come Voice over IP, queste applicazioni viene rese disponibili anche su uno smartphone. Allora, cosa fa questa applicazione? Nel momento in cui l'utilizzatore non sta facendo di fatto niente e lì l'applicazione lì sembra dormiente, di fatto in realtà vediamo che c'è la lista di amici che è colorata in maniera diversa a secondo della presenza, se è online oppure no. Allora, detto questo, per poter effettivamente registrare questa informazione, lo smartphone dell'applicazione deve chiedere periodicamente alla rete se l'amico tal dei tali effettivamente ancora in rete oppure no. Questa cosa qui la deve fare molto frequentemente in modo tale da avere delle informazioni reali della presenza del proprio amico su una piattaforma, per esempio Skype piuttosto che Yahoo o quant'altro. Questo genera non tanto dei dati, diciamo un traffico dati come può essere scaricare un video o scaricare una canzone, ma quello che genera è soprattutto tantissime connessioni di piccola durata, ma tante. Tecnicamente lo chiamiamo traffico di segnalazione. Quindi quello che fa aumentare lo smartphone come caratteristica di traffico rete non è il traffico dati, ma il traffico di segnalazione. Quindi pensate ad esempio ad applicazioni come la borsa in diretta, che costantemente su uno smartphone ci tiene aggiornati sull'andamento dei titoli di borsa, oppure il meteo, le ultime notizie. Tutte queste applicazioni scambiano pochi dati con la rete, ma lo fanno in maniera frequente, quindi mettono sotto pressione il network di telefonia mobile. L'indirizzo di posta elettronica di 2024, se volete comunicare con la redazione del nostro programma, è molto semplice, è scritto in cifra 2024@radio24.it. Per la messa in onda del programma oggi ringraziamo Filippo Aureggi e Paolo Corleoni. Stiamo parlando della capacità delle reti che dovrà essere sviluppata nei prossimi anni, stiamo parlando di reti di telefonia mobile messe sotto pressione dall'aumento del traffico dovuto in modo particolare dalla diffusione ormai massiccia degli smartphone. E dicevamo poco fa che buona parte del traffico è dovuta al cosiddetto traffico di segnalazione, quindi brevi messaggi magari per aggiornare un'applicazione, ma molto frequenti. E sentiamo che cosa sta succedendo sulle reti anche sui nostri smartphone, ancora con Alessandro Di Salvo di Nokia Siemens Network. Quello che succede è che si registra nelle reti di telecomunicazione da una parte un traffico dati molto elevato, come si diceva, legato ai PC che sono legati a internet mediante la rete mobile, ma allo stesso tempo diciamo tutto il traffico di smartphone ha fatto incrementare notevolmente il traffico di segnalazione. Quindi quello che si assiste è di fatto una dualità in cui la rete è molto caricata dall'utilizzo di smartphone. E per rendere un'idea anche di che tipo di quantità stiamo parlando, dobbiamo tenere in considerazione che quando rapportiamo il mercato dei PC, dei notebook, per esempio, con il mercato di smartphone, nel 2009 stiamo parlando di 150 milioni di notebook venduti nel mondo e 170 milioni di smartphone. Dal lato utente, quello dell'aumento del traffico della rete o comunque questo aumento di traffico, come voi dite, di segnalazione, che problema crea? Beh, sicuramente abbiamo letto un po' tutti il dibattito negli Stati Uniti tra AT&T e Apple, sostanzialmente alcune problematiche che sono venute fuori proprio dovute a una congestione di rete in determinate aree ben precise. Questa è la testimonianza di quello che può succedere come sovraccarico di rete in certe situazioni, in cui magari nell'ora di punta o comunque in presenza di un numero notevole di smartphone in una certa area, questo può chiaramente caricare la rete un po' in maniera eccessiva, e quindi chiaramente bisogna preoccuparsi, diciamo, non sottostimare il fenomeno, ma di fatto predisporsi proprio a predisporre la rete e predisporre in maniera opportuna in determinate aree, in modo da poter accogliere un numero sempre più crescente di smartphone, perché stiamo dicendo, mentre un mercato di notebook viene visto dai vari analisti di mercato come abbastanza stabile negli anni, comunque con delle crescite piccole ormai, quindi stabilizzato, quello di smartphone viene previsto una crescita enorme. Basti pensare a analisti come Gartner, che prevedono che nel 2013 il 43% dei telefoni venduti saranno smartphone. Quindi se pensiamo che il mercato globale è di 1 miliardo e 300 milioni quest'anno, insomma facciamo il 43% e capiamo quanti, quindi parliamo di 500 milioni o più smartphone venduti nel mondo. Voi dite che ci sono anche dei problemi legati alla durata delle batterie, cioè questo scambio continuo di dati crea anche dei problemi sul lato della batteria. Che tipo di tecnologie gli operatori che producono tecnologie di rete come voi stanno implementando e stanno offrendo agli operatori di telefonia mobile per risolvere questo problema? Sì, la proliferazione proprio delle applicazioni chiaramente spinge l'utilizzo delle batterie in maniera enorme, chiaramente. Da un lato ci arricchisce la vita e ci fa anche divertire, perché ci sono alcune applicazioni utili, altre un po' più futili, ma comunque tutto sommato arricchiscono la nostra vita. Detto questo, quello per poter aumentare la durata delle batterie, Nokia Siemens Networks è da diversi anni impegnata nella standardizzazione per una serie di proposte che consentono di aumentare non solo l'efficienza di rete, ma anche la capacità di allungare la vita delle batterie. Facciamo un esempio per tutti: quando si diceva prima un'applicazione che deve mandare una certa informazione con il server per poter fare qualcosa, questa applicazione genera magari 30 messaggi di segnalazione sulla rete. Con opportune modifiche, appunto, che abbiamo portato noi in maniera innovativa nello standard, è possibile mandarne solo 4. Quindi questo fa sì che può esserci una riduzione del traffico di segnalazione, effettivamente anche in un range tra un quarto e un sesto, insomma. E questo sicuramente è un aspetto poco valutato e forse poco conosciuto, ma è estremamente interessante, perché poi il tutto lo sperimentiamo nel bene o nel male sulla funzionalità del nostro smartphone, perché dietro le quinte succede quello che abbiamo descritto, e il risultato finale è che la batteria del nostro telefono dura meno, con opportuni accorgimenti tecnologici, non ce ne accorgiamo, ma la batteria del nostro telefono, il telefono fa le stesse cose, la batteria dura di più. Un invito che l'industria sta facendo è anche ai produttori di applicazioni nel futuro, già forse oggi, bisognerà sempre più stare attenti a costruire, progettare, sviluppare applicazioni che ottimizzino il traffico dati e anche questo scambio continuo di dati. La scorsa settimana abbiamo parlato dell'importanza che oggi hanno i processori per gli smartphone, la potenza e la capacità di fare calcoli complessi in poco tempo. Che cosa sta facendo Intel, il più grande produttore di microprocessori al mondo, che sta estendendo la propria presenza nel mondo della mobilità con, ad esempio, Atom, ma ancora non ha un prodotto pensato esclusivamente per smartphone? È ipotizzabile che lo abbia in futuro, visto l'interesse dimostrato per il settore. Ricordiamo che Intel lavora in modo particolare con Nokia. Anche recentemente è stato annunciato lo sviluppo di una piattaforma software comune, un sistema operativo basato su Linux che servirà per fare funzionare non solo smartphone, ma anche altri prodotti dedicati e pensati per la mobilità. Dell'importanza, potremmo dire, del silicio in questo settore abbiamo parlato recentemente con Tom Kilroy, che è uno dei vicepresidenti dell'azienda americana. Our belief is consumers would enjoy that internet access and same experience. Crediamo che i consumatori, così come accade per un computer portatile, possano navigare in internet e utilizzare allo stesso modo anche uno smartphone con tecnologia Intel. Ma direi che guardiamo soprattutto ad una esperienza analoga per molti tipi di apparecchi, quindi non solo un telefono, ma anche un tablet, un notebook o un netbook. Per i consumatori ormai è diventato frequente usare indifferentemente questi strumenti ed è per questo che riteniamo importante estendere l'architettura Intel dai supercomputer fino agli smartphone. Take the Intel architecture down from the highest end PC all the way down to the handset. Kilroy non si è sbilanciato su un processore in arrivo per il segmento degli smartphone. Un'altra cosa interessante che abbiamo domandato è relativa ai mercati in cui opera Intel e quali sono i più interessanti nel mondo dal loro punto di vista, naturalmente. I would say the countries that embrace technology. Direi quei paesi che affrontano la tecnologia focalizzandosi sui giovani nelle scuole affinché ne capiscano l'importanza. Quindi direi quei mercati che promuovono la tecnologia e l'innovazione come modo per migliorare le proprie condizioni economiche, così quella delle persone nel paese. Questi sono i mercati dove operiamo meglio, perché sono molto simili con la cultura di Intel. Quindi potremmo dire guardate soprattutto all'Asia. Not necessarily. As a matter of fact, you look where we're at here today and you look at mobile. Non necessariamente. Guardi per esempio alla leadership dell'Europa nell'industria della telefonia mobile. Molta innovazione arriva dall'Asia, ma la ragione principale per cui l'industria dei PC si è spostata in Asia è per ragioni di costo. Se parliamo di innovazione e guardiamo all'Europa, ci sono esempi di leadership nel settore delle comunicazioni, in quello dell'intrattenimento e delle informazioni nelle automobili, che è un'importante area di crescita. Penso che l'Europa possa continuare e incrementare la propria leadership e creare posti di lavoro per guidare questo tipo di innovazione. Leadership to become, you know, thought leaders, if you will, and develop knowledge workers that can drive this innovation I spoke of. Uno degli sviluppi al quale stiamo assistendo in questi anni è la grande espansione della capacità di calcolo in un numero crescente di strumenti. Abbiamo parlato poco fa degli smartphone. Voi siete interessati a questo trend perché dentro molte di queste applicazioni ci sono naturalmente dei processori. A che punto siamo di questa evoluzione? If you go look at the way we live our lives, you're interacting with technology. Se guardiamo la nostra vita, interagiamo con la tecnologia come mai prima di oggi. Un paio di giorni fa sono andato all'aeroporto con un'auto che ha a bordo un sistema di informazione e di navigazione integrato dove c'è un processore. Ho fatto check-in all'aeroporto in un chiosco, anche in questo caso un sistema computerizzato. You go check-in the airport at a kiosk. Tutto ciò di cui parliamo è digitale ed è connesso ad internet. Insomma, le applicazioni cosiddette embedded, quindi integrate, sono pervasive. Seriously, embedded applications ed è quello che chiamiamo computing continuum. Quindi non si tratta solo di smartphone, netbook o notebook. Insomma, per rispondere alla sua domanda, nella nostra visione ci sono 1 miliardo di strumenti interconnessi ogni anno per i prossimi 4-5 anni. Ed è questo quello che ci guida. Tra poco ripartiremo proprio da qui, perché questo è un trend di cui si parla da molto tempo, ma forse che stiamo osservando in modo, potremmo utilizzare un termine che abbiamo usato poco fa, pervasivo proprio negli ultimi anni, cioè la capacità di miniaturizzare, quindi di rendere sempre più piccola la capacità di calcolo, ad esempio dei processori, sta equipaggiando molti strumenti. Da qui ripartiremo tra poco per parlare di una cosa che i tecnici chiamano la Internet degli oggetti, Internet of Things. Questo è 2024, vi diamo un paio di notizie prima di concludere questa prima parte, che riguardano sempre il mercato della telefonia mobile. Da questa settimana Nokia ha annunciato la disponibilità di Skype per circa 200 milioni dei propri smartphone. Il software si può installare tramite Ovi, che è l'application store di Nokia. Skype, tra l'altro, ha lanciato da pochi giorni anche la nuova versione del software per PC. Ricordiamo che Skype è un software per telefonare gratuitamente ad altri utenti che hanno Skype, oppure fare telefonate in giro per il mondo a prezzi molto contenuti, sfruttando una tecnologia proprietaria ma che va sotto il cappello più ampio del Voice over IP, ed è anche un sistema di messaggistica istantanea. L'altra notizia riguarda la Apple, che ha fatto causa alla taiwanese HTC, che produce gli smartphone di Google come il Nexus One. Apple accusa HTC di avere violato 20 brevetti relativi all'iPhone. Ricordiamo che questa è una delle ultime denunce nel campo degli smartphone, visto che Nokia aveva denunciato la Apple aveva controdenunciato la Nokia, e questo è un altro capitolo. In questa puntata di 2024 vogliamo parlare di un trend e anche un'opportunità di business molto interessante che la rete sta proponendo in questi anni. Il trend è osservato dagli esperti da molto tempo, probabilmente da più di 10 anni, ma forse questi sono gli anni in cui la cosiddetta, così dicono gli esperti, Internet of Things, l'internet degli oggetti, si sta avverando. Dicevo che è anche un'opportunità di business, perché l'escalation che vedremo all'interno del grande mercato collegato ad internet di oggetti che sono connessi tra di loro creerà appunto nuovi mercati e nuove opportunità. Ne vogliamo parlare con due dei tre fondatori di una società che si occupa proprio di osservare in prima battuta questo mercato, ma sicuramente poi anche di trovare occasioni di business. Saluto David Orban, che è uno dei fondatori di White Tag. Benvenuto a 2024. Ciao Enrico. Tu sei ufficialmente il Chief Evangelist. Evangelist è una parola che usano molto gli americani. Potremmo tradurla come divulgatore, giusto? Sì, il mio compito è quello di articolare la visione di White Tag per spiegare bene ai nostri partner, al potenziale mercato e in generale a chi si interessa di queste cose, quali appunto sono le opportunità dell'internet degli oggetti. Oggi è con noi anche Leandro Agro, che invece, dicono gli americani, è il CEO, quindi diremo noi l'amministratore delegato di White Tag. Voi siete un'azienda americana. Diciamo solo una cosa sull'azienda, poi spiegheremo più nel dettaglio quello che fate, giusto? Siete americani, ma voi siete italiani? Sì, siamo americani. Innanzitutto grazie di averci invitato qui oggi. L'azienda è stata fondata in California a marzo del 2008. In realtà, come ormai sta accadendo a molti, si tratta di organizzazioni che utilizzano fortissimamente la rete come infrastruttura di comunicazione tra tutte le persone che collaborano, e quindi la georeferenziazione, la presenza in California è sostanzialmente una presenza di visione, di appartenenza a un mercato, di posizionamento amministrativo più adatto a quella che è una sfida globale, insomma. Vorrei chiedere a David Orban di spiegare a me e agli ascoltatori che cosa intendiamo per internet degli oggetti. che è un concetto di cui gli esperti parlano, che comunque gli esperti osservano da parecchio tempo, giusto? Non è una novità. È famoso il detto che risale agli anni 50 che il mercato dei computer a livello mondiale sarebbe stato di qualche decina di pezzi. E in realtà abbiamo visto che non è così. E da poche migliaia a qualche milione, oggi siamo arrivati ad avere una rete planetaria di diversi miliardi di computer che chiamiamo i cellulari. Il prossimo passo, che è stato reso possibile dalla progressiva miniaturizzazione di questi device, porterà ad avere decine, centinaia o addirittura migliaia di miliardi di oggetti attorno a noi. Ed è questa la rete che chiamiamo Internet degli oggetti. Oggetti intelligenti, questa è la differenza con gli oggetti che abbiamo, che ne so, oggi io in casa posso accendere la radio per ascoltare magari Radio 24, ma quell'oggetto sta da solo, non parla con nessun altro, riceve un segnale e mi fa ascoltare la radio. Cosa cambierà? In effetti parliamo di una rete di oggetti, quindi, come giustamente hai detto, consideriamo quegli oggetti che sono connessi, parlano fra di loro, parlano con noi persone, diventano sociali. E quello che avverrà è una progressiva sostituzione di tutti gli oggetti attorno a noi, perché niente che non sia connesso avrà valore. Solo gli oggetti che sono connessi sapranno soddisfare le nostre esigenze, così come oggi dimostrato in quei momenti dove non c'è la copertura della rete 3G e teniamo in mano il nostro telefono cellulare avanzato e siamo lì a dire, boh, adesso cosa ci faccio? Certo, non mi riesco a connettere. Leandro, voi intanto diciamo qualcosa anche sul nome della società, perché in qualche modo WIDE e TAG sono due concetti che si collegano molto bene a questa Internet degli oggetti. Tu poco fa, quando parlavi di rete di oggetti, dicevi, ma saranno degli oggetti intelligenti. Soprattutto è fondamentale che questi oggetti abbiano una identità, quindi il tag da questo punto di vista è fondamentale. E questa identità è ciò che gli consente di comunicare con tutto il resto della rete, dove per rete non devi solo pensare alla parte fisica, materiale di oggetti, ma a una rete che si fonde tra gli oggetti che utilizziamo e noi stessi, le nostre estensioni sui social network. Oggi un sensore comincia a collegare il mondo fisico a quello che in realtà è un'attività che poi magari finisce sui social network. Ci sono già in vendita, possiamo comprarle nei negozi, che sono delle bilance pesa persone che prendono il tuo peso in casa tua, ma rispetto a quello che è il tuo diciamo così, obiettivo di dimagrimento piuttosto che di altro, poi comunicano questo tipo di informazione su Facebook e su Twitter. Come diceva David, noi vogliamo portare nel nostro futuro solo gli oggetti che siano in grado di essere connessi, perché noi in prima persona siamo, come posso dire, diffusi sulla rete, comunichiamo attraverso la rete. Quindi WIDE TAG è, se vuoi, il modo di gestire gli oggetti dal punto di vista soprattutto software che consentirà come infrastruttura la creazione di questo genere di servizi. Voi fate software, pezzi di silicio, che cosa fate? O che cosa farete? Perché il mercato sostanzialmente WIDE TAG è una software company. Noi abbiamo un pensiero molto, si dice design driven, nel senso che ragioniamo molto sulla cultura e sull'apporto che il design dà alle tecnologie, ma sostanzialmente produciamo protocolli di comunicazione e software di back-end, come una volta erano considerati i database piuttosto che questo genere di cose. Noi siamo l'architettura che non si vede della Internet delle cose, ma essendo un mercato le cui potenzialità sono in parte inesplorate, avendone compreso le dinamiche e la cultura che ci è sottesa, spesso abbiamo la volontà o forse la necessità addirittura di mostrare queste potenzialità costruendo dei prototipi che siano completi end-to-end, e quindi facciamo anche della prototipazione hardware, mostriamo alle aziende cosa possono fare con quel tipo di nuove tecnologie. Chiaro. Perché l'Italia non si perda l'opportunità delle Internet delle cose come si è un po' persa l'opportunità del Web 2. Infatti questo è un punto interessante. Poi vorrei approfondire anche facendovi fare degli esempi pratici, però su questo punto vorrei insistere perché è importante. Allargando lo sguardo, stiamo vedendo molte società che si occupano di questo, di questa esplosione di oggetti che vedremo sempre più nei prossimi anni. È un processo molto lento che forse sta già accadendo e che vedremo appunto sempre più nei prossimi anni. Ci sono molte aziende che si occupano di questo o siete ancora tra i pochi? Ci sono proprio le aziende anche più grandi del mondo nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni, da Google a Cisco a Intel. Io ho incontrato l'estate scorsa Justin Ratner, che è il Chief Technology Officer di Intel, il responsabile tecnico, che mi ha illustrato il piano proprio per i prossimi 10 anni di Intel, che vede la costruzione degli elementi fisici di una rete di 7.000 miliardi di nodi. E quindi sicuramente White Egg non è da sola. Questo ecosistema del resto di startup, di grandi aziende, di protocolli, di prodotti, di offerte per aziende o per consumer, sarà tanto importante, se non di più, quanto gli ultimi 15-20 anni hanno rappresentato con l'esplosione di Internet. E quindi c'è spazio veramente per molte iniziative. Tu, Leandro, dicevi che questa è una buona occasione per l'Italia. Diciamo che fino ad oggi, guardando ad Internet, alcune occasioni sono state colte, altre sono state completamente perse, e forse se guardassimo come sistema paese con più attenzione a quello che sta succedendo nel mondo, prima David faceva riferimento al numero incredibile di smartphones nel mercato della telefonia, siamo ancora oggi incredibilmente uno dei primi mercati, ma non abbiamo creato un sistema industriale che possa sfruttare questo mercato. Tu dici che questa è invece una buona opportunità. Ma allora, diciamo le cose proprio una dietro l'altra in fila. Stiamo dicendo che gli oggetti d'uso quotidiano che oggi possediamo saranno, secondo dei cicli di vita, ognuno differente, sostituiti da oggetti connessi, e questo lo stiamo vedendo già in parte nelle nostre tasche, già in parte nei supermercati. Stiamo dicendo che gli oggetti sociali, quindi capaci di comunicare con i social network, sono in questo momento una parte fondamentale. Stiamo dicendo che nel mondo ci sono una serie di grandi aziende che sono più o meno sempre le solite, che stanno affrontando questa tematica con estrema serietà. E io aggiungo, stiamo dicendo tutto ciò stando in Italia. L'Italia, da questo punto di vista, non solo è un grande potenziale mercato, lo dimostra la telefonia, ma è stata in passato una grandissima nazione rispetto a quello che è stata la prima era dell'informatica, e penso Olivetti, ma è stata anche capace di cogliere molte opportunità nel web 1, ricordo Virgilio, ricordo Jux, ricordo Venere. Siamo stati in grado di esserci. Il ritardo tecnologico tra l'Italia e la California nel 2000 era tale per cui, per esempio, io ho preferito lavorare in Italia. Oggi le cose non stanno più così. Quindi non c'era ritardo. Era trascurabile. Sì, sì, stavamo facendo la rete noi come loro, sì, alla pari. Oggi non è più così. La crisi della cosiddetta new economy, la crisi finanziaria dei mercati, l'11 settembre hanno scioccato il mondo, ma mi pare che l'Italia sia rimasta più scioccata degli altri, perché il resto del mondo, per esempio, se parliamo di questo settore, ha avuto il Web 2. Sono nate cose incredibili come Facebook, che prima non c'erano, sono nati Flickr, YouTube, è tutto venuto dopo. Noi siamo stati a guardare, tramortiti, addormentati, ed oggi non ci rendiamo conto che un pezzo della internet delle cose è già al supermercato e siamo lì a guardare. E White Egg è, come dire, è un'opportunità. È un'opportunità perché noi stiamo facendo ricerca in ambito culturale e innovazione in ambito tecnologico. Possiamo dire, e poi David magari darà anche delle indicazioni di dettaglio di questo, che noi siamo competence leader a livello worldwide su questa tematica. E io credo che l'Italia, che ha anche una realtà manifatturiera, dovrebbe interessarsi alla possibilità di creare un polo per la internet degli oggetti in Italia, perché abbiamo la cultura giusta, perché questo tipo di mercato non può esistere senza il design, e il design in Italia è qualcosa che è abbastanza di casa, e perché quella parte di capacità manifatturiera che è sempre stata tipica dell'Italia possa trovare sfogo, uno sfogo che può essere solo legato alla progettazione di nuovi oggetti. Non dobbiamo fare la concorrenza alla Cina sulla produzione, ma se pensiamo per esempio a Apple e a come ha usato il Designed in California per diventare la più grande società di successo in termini di oggetti, sì, sì, certo, del desiderio. Apple non produce nulla in California. È certo, evidente, certo, no? Designed in Italia, Designed in Italy è sufficientemente seducente da essere... È già un brand di per sé. Esatto. Designed in Italy più che made in Italy. Ricordo che il nostro programma sarà disponibile attraverso il servizio podcast, quindi il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24, al massimo entro le 18:30 del sabato. Di solito i nostri tecnici sono più veloci, ma questo insomma è l'orario ufficiale entro il quale vi mettiamo a disposizione il file della nostra trasmissione. Potete abbonarvi gratuitamente al servizio, tutte le informazioni sono online su www.radio24.it alla voce podcast, oppure scriveteci una email a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro programma va in onda il sabato tra le 16 e le 17, oppure ci trovate appunto anche online. Stiamo parlando di questa anche occasione di business per l'Italia, Internet of Things, la Internet degli oggetti, quindi l'esplosione di oggetti intelligenti interconnessi alla rete Internet che stiamo già vedendo, ma che vedremo sempre di più nei prossimi anni. Prima abbiamo accennato ad esempio al cosiddetto infotainment all'interno delle automobili. Anche le automobili, ne stiamo vedendo alcuni esempi che stanno uscendo sul mercato proprio in questi mesi, stanno cominciando ad essere interconnesse alla rete, e questa è un trend molto estremamente interessante. Pensate anche ai servizi che potranno essere creati grazie a tutto ciò. Dunque, David Orban, facciamo qualche esempio. Voi state pensando, che ne so, ad esempio alla lavatrice interconnessa, oppure poco fa facevo riferimento alla radio, a che cosa? La lavatrice connessa è già stata citata da Vinton Cerf. Sì, c'è già qualche lavatrice che è connessa. Ma a me ha fatto particolarmente ridere perché è il classico esempio, diciamo, assurdo, perché è così appunto quotidiano, elementare e non aggiunge particolare valore a priori, perlomeno nei nostri occhi. Spesso in questi campi, in effetti, la cosiddetta killer application, quindi la ragione d'essere delle nuove tecnologie, è del tutto inaspettata, e quindi anche noi non pretendiamo di averla ancora necessariamente trovata. Comunque ti posso dare un paio di esempi. Innanzitutto il nostro prodotto leader, che si chiama White Spine, si propone di abilitare una nuova classe di applicazioni che possano incontrare le nostre esigenze incredibilmente aumentate. Se pensi ad una decina, quindicina d'anni fa, quando c'era quello che si chiamava client server computing, e le aziende mettevano giù qualche centinaio di personal computer nei loro uffici, che poi cercavano di collegare con le applicazioni, e queste cose fallivano perché non c'era la scalabilità necessaria per sostenere questo grande numero di calcolo, ci rendiamo conto quanta strada abbiamo fatto quando pretendiamo e otteniamo che giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, un'applicazione utilizzata da milioni di persone simultaneamente come Gmail funzioni e sia affidabile. Oggi lo pretendiamo e domani pretenderemo giustamente ancora di più. Quando la programmazione in tempo reale del mio pacemaker deriverà dalla disponibilità della rete, questa dovrà essere quella attuale, ma aumentata di un milione di volte. E White Spine appunto è costruita per essere scalabile, per essere robusta, per essere affidabile a quei gradi. Per fare funzionare, oppure per connettere, tu hai fatto l'esempio del pacemaker, ma che cos'altro? Ti faccio un esempio che tra l'altro si riconduce ad un evento anche molto recente di una nostra partnership con Greencom Challenge, che è uno degli sfidanti alla prossima America's Cup. Io sono tornato adesso recentemente da Valencia, dove si è svolta la 33esima edizione, dove Greencom Challenge era presente come naturalmente osservatore di BMW, Oracle e Dalinghi che si sfidavano, ma dove si è anche presentata. Si è presentata anche con la partnership con WhiteTag, perché il nostro obiettivo è quello di aumentare radicalmente la sensoristica presente su queste barche meravigliose, espressione di altissima tecnologia, in modo da poterne acquisire dati, in modo da poterne studiare e monitorare in tempo reale il comportamento dei materiali, dei sottosistemi e ingenerare quei circoli virtuosi di ricaduta e diffusione tecnologica di cui per esempio godono altri sport spettacolari come la Formula 1. Quindi questa cosa potrebbe essere, che ne so, inserita in una casa, questo sistema di sensori interconnessi. Sicuramente quello dell'automazione dei sistemi di riscaldamento, illuminazione, monitoraggio, allarme delle case è importante. Ha già un suo nome, si chiama domotica. E anche nelle case ci saranno comunque nuove applicazioni. Ci sono tantissimi valori ambientali che non vengono tuttora monitorati, ma che per molte ragioni legislative, di salute personale, di miglioramento di efficienza energetica o quant'altro, rientreranno presto e necessariamente sotto il controllo di questi sensori. Leandro, vuoi aggiungere una cosa? Beh sì, come diceva bene David, è difficile individuare la killer app di un mercato in evoluzione, ma sappiamo alcune cose. Sappiamo che non c'è sviluppo senza sostenibilità, sappiamo che l'energia è il bene più prezioso che l'umanità necessita, ed è quindi evidente che laddove l'energia va prodotta, monitorata durante il trasporto, stoccata e consumata in modo consapevole, lì tutto il monitoraggio in tempo reale condiviso sui social network con il resto della comunità può avere la sua parte. Conosciamo al contempo pochissimo sull'ambiente, non sappiamo neanche valutare la qualità dell'aria di casa nostra e pochi sanno che la qualità dell'aria dentro casa è spesso peggiore di quella che potremmo esperire fuori in strada, persino in una città. E mi aspetto che le applicazioni di monitoraggio della qualità ambientale in tutte le loro sfaccettature, non soltanto in chiave ecologica ma anche in chiave di sicurezza, possano e debbano essere molto più diffuse di quanto siano oggi e debbano essere intrinsecamente condivise tra autorità centrali e pubblico. Una cosa che secondo me è fondamentale capire, anche per individuare un mercato che definisco di pubblica amministrazione dei prossimi 20 anni, è legato alla partecipazione attiva dei cittadini. Reti così estese, con una granularità così particolareggiata, non possono più essere create da nessuna autorità centrale senza la partecipazione dei cittadini. Aspettiamoci che da domani in poi la condizione abilitante perché davvero noi si sappia qualcosa sul mondo che ci circonda è la condivisione dei dati che noi raccogliamo sull'ambiente. Un esempio concreto di applicazioni di questo tipo è White Noise, che chiunque ha un iPhone può comprare oggi. Noi l'abbiamo realizzato proprio per far vedere come un oggetto quotidiano può diventare qualcosa di diverso e di nuovo. White Noise utilizza il cellulare come una centralina di monitoraggio del rumore ambientale e con un semplice gesto si può rilevare il rumore che qua non ci sarebbe, in altri posti sarebbe elevatissimo, e poi mandarlo su Twitter oppure mapparlo sul Google Maps, dove si visualizza assieme agli altri dati rilevati. Quindi poi uno può scegliere la casa in base ad esempio al rumore di una zona della città. Assolutamente. Bene, io ringrazio David Orban per essere stato con noi e anche Leandro Agrò. Buon lavoro, a presto. Grazie. Grazie. E così concludiamo questa puntata di 2024. Torniamo la prossima settimana. Non dimenticate il file MP3 della nostra trasmissione sul nostro sito internet, dove trovate molte altre cose, anche alcuni link che vi proponiamo settimana dopo settimana, www.radio24.it. Grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie anche per le vostre email e grazie anche ad Anita Riotti in redazione. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana sempre qui su Radio 24, il sabato tra le 16 e le 17. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.